L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, il pianeta della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Parliamo questa settimana di una iniziativa che è stata varata per l'appunto nel corso della settimana, perché è partito lunedì 27 febbraio in tutta Italia un censimento dal basso del patrimonio edilizio esistente. Lo ha voluto il Forum Italiano dei Movimenti per la Terra ed il Paesaggio. Verrà realizzato in ognuno degli oltre 8.000 comuni del paese, ma per spiegarci meglio di che cosa si tratta abbiamo qui con noi il coordinatore del Forum Italiano dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio, che è Alessandro Mortarino. Benvenuto. Buongiorno a tutti voi. E poi per dirci quali sono anche le implicazioni, i punti di vista di tutte le associazioni che poi hanno aderito a questo forum, abbiamo anche altri ospiti: Luca Martinelli di Altra Economia, benvenuto. Grazie. E Carlo Bogliotti di Slow Food. Però, come dicevamo, questo è il momento di spiegare di che si tratta. Quindi, Mortarino, innanzitutto la parola a lei. Di che si tratta? Perché si fa questo censimento? Ma è un censimento che ha un obiettivo molto chiaro, quindi quello di portare al di fuori della pura e semplice ideologia quello che è stato fino adesso un dibattito sul presente e sul futuro urbanistico delle città e di tutti i paesi italiani. Quindi noi stiamo tentando di richiedere a tutti i comuni proprio di compilare una scheda che ci consente di capire qual è il punto della situazione attuale, quindi quanto c'è in particolare di costruito e di non utilizzato, di vuoto, di sfitto, quindi mettere in luce un dato che non sempre viene considerato, insomma, al centro delle pianificazioni. Sapere questo cosa potrà cambiare? Beh, e questo dal nostro punto di vista potrebbe raccontarsi delle grandi novità, delle grandi sorprese, perché in alcuni comuni dove abbiamo già fatto questo genere di attività ci siamo resi conto che addirittura un 30-40% del costruito è in queste condizioni, quindi è non utilizzato, ed è ovviamente un dato molto importante che nell'ottica di un risparmio dei suoli, degli spazi liberi, ovviamente potrebbe consentire di provare a ipotizzare piani regolatori profondamente diversi. Abbiamo perso per un attimo il collegamento. Luca Martinelli, tu su questo punto hai scritto moltissimo e con particolare precisione. C'è un bellissimo articolo che io ti chiedo un po' di riassumerci: bulimia immobiliare. Di che si tratta? Perché l'Italia soffre di questa bulimia immobiliare? Allora, l'Italia soffre di bulimia immobiliare perché negli anni si è instaurato un circolo vizioso che vede coinvolti gli istituti di credito, che hanno impegnato molti soldi per sviluppare progetti immobiliari, appartamenti rimasti vuoti, e che oggi non possono fermare questo circuito permettendo che alcuni operatori falliscano, perché altrimenti trasformerebbero questi crediti in incagli, in delle cose inesigibili. A questo circolo vizioso partecipano gli enti locali, che vedono i propri bilanci drogati dagli oneri di urbanizzazione, con tutti i tagli e trasferimenti delle risorse che ci sono state negli ultimi anni. I comuni sostanzialmente vivono della possibilità di usare fino ai tre quarti delle risorse che vengono destinate, che dovrebbero essere destinate agli oneri di urbanizzazione, alle spese correnti di funzionamento dell'ente locale. Questo ha creato una situazione paradossale in cui, secondo i dati dell'Agenzia del Territorio, nel nostro paese è più alto il numero degli immobili a disposizione, ovvero di quelli non utilizzati, rispetto ad esempio agli immobili locati. L'11% del patrimonio edilizio del nostro paese è considerato a disposizione, si parla di quasi 6 milioni di immobili. Luca, mentre aspettiamo di ricollegarci con Alessandro Mortarino, che nel frattempo non riusciamo più a trovare, ma comunque che ritroveremo, mi auguro, chiedo a te anche che cosa può cambiare fare questo censimento. Non credo che cambierà la testa degli amministratori o di alcuni costruttori. Però il censimento non arriva da solo. Salviamo il Paesaggio è un forum nazionale, ma che si sta articolando a livello territoriale. Quindi quello che contiamo di avviare è un percorso di pressione e di formazione, di pressione sugli enti locali per far sì che si inizi a riflettere in maniera diversa sulla pianificazione urbanistica, e di informazione alla cittadinanza. C'è un dato che spesso è stato ricordato anche in questo periodo di crisi economica, quello che ci dice che circa la metà della ricchezza, che le famiglie italiane non sono indebitate, che questa è una salvezza per la situazione del paese e che circa la metà della ricchezza delle famiglie è però detenuta sotto forma di immobili. Ecco, proviamo a immaginare cosa succederebbe a questo dato se fra qualche anno dovesse davvero scoppiare la bolla immobiliare che si sta preparando. Questa famosa ricchezza delle famiglie italiane diverrebbe molto più piccola e con essa anche la possibilità di far fronte con questa ricchezza alle eventuali difficoltà economiche del paese. In più la continua crescita del patrimonio edilizio anche inutilizzato svilisce ciò che è già costruito, perché si va a deteriorare anche da un punto di vista paesaggistico ciò che abbiamo intorno, quindi i contesti in cui viviamo e in cui eventualmente siamo anche proprietari di abitazioni. E io credo che se iniziamo a riflettere con i cittadini italiani su tutti i limiti di questo sviluppo, di questa Repubblica fondata sul cemento, come scrivo sul mio libro Le conseguenze del cemento, ritoccando il primo articolo della Costituzione, probabilmente riusciremo ad avviare anche un percorso culturale importante. Il forum Salviamo il Paesaggio nasce idealmente come esperienza da quella del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, quindi anche in questo caso quando partì nel 2006 questa esperienza di certo non aveva l'idea o non vedeva la possibilità di divenire a breve egemone culturalmente sul paese fino a portare 27 milioni di persone a votare al referendum. Carlo Bogliotti, mi sembra piuttosto evidente da quello che ci ha detto Luca, da quello che ci aveva detto prima Mortarino, il perché Slow Food aderisce a questa iniziativa, ma vorrei sentirlo precisare da lei anche con appunto le specifiche di Slow Food. Sì, noi di Slow Food siamo stati fin dall'inizio della partita con gli altri movimenti che insieme a noi hanno un po' fondato questo forum, al quale hanno immediatamente aderito tantissime altre associazioni italiane, nonché un qualche migliaio di cittadini a titolo individuale. La cosa nasce dalla nostra preoccupazione rispetto al consumo di suolo fertile nel nostro paese, che è una cosa che, se ci pensiamo, è sotto gli occhi di tutti, ma non si riesce ad averne l'idea della portata generale che ha. Sul suolo fertile si fa cibo, si fa agricoltura, si auspica, almeno noi di Slow Food auspichiamo che si faccia una buona agricoltura che serve anche a tutelare l'ambiente, il paesaggio, la sicurezza dei nostri territori, e volevamo trovare gli strumenti per opporci a questo consumo veramente scellerato del suolo fertile in Italia. Abbiamo trovato tante associazioni, tanti soggetti in Italia che su questo punto la pensavano esattamente come noi, e abbiamo pensato che il modello del forum dei movimenti per l'acqua fosse un ottimo modello per iniziative dal basso, in grado anche di andare a incidere in maniera importante sul futuro del nostro paese, e quindi abbiamo iniziato questa avventura. Il suolo fertile è, insieme all'acqua e all'aria che respiriamo, uno dei beni comuni più importanti, e l'interesse del privato non deve pregiudicarlo per sempre, deve poter essere coltivabile, deve poter essere fruibile, deve poter anche mantenere in vita la terra. E anche la popolazione italiana nel caso specifico. Abbiamo fortunatamente ritrovato Alessandro Mortarino, ci ha fatto un po' temere Mortarino, è scomparso. Gli scherzi del mestiere. Però vorrei riprendere con lei, che purtroppo non ha potuto seguire questi ultimi minuti, se non proprio l'ultima parte, però il tema appunto anche del coordinare un forum così. Le associazioni sono tante, i cittadini interessati sono tantissimi, questo lo vediamo anche noi in radio quando parliamo di questi temi. Che tipo di coordinamento è necessario fare in questa situazione? Ma io credo che sia più un coordinamento di morale e di anime, nel senso che le attenzioni erano enormi anche in questa direzione, quindi la difesa del bene comune, terra e paesaggio, però occorreva un po' in qualche modo, insomma, avere coraggio di lanciare un messaggio collettivo e in qualche modo mettere in rete le persone, le organizzazioni. Quindi il mio compito in questo momento è quello soprattutto di incentivare un po' la nascita dei comitati a livello locale, e poi ovviamente è un lavoro che deve servire semplicemente proprio per incentivare un po' le amministrazioni comunali a mettere in luce questi dati e su quello finalmente costruire un dibattito un po' sensato. I cittadini qua possono intervenire magari facendo pressione sulle amministrazioni comunali? Certo, assolutamente, anzi la cosa più importante è che stiamo attivando. Da lunedì abbiamo iniziato a trasmettere questa nostra richiesta con la scheda di censimento ai vari comuni e ovviamente nelle prossime settimane sarà fondamentale che cittadini o comitati a livello locale invece bussino alla porta dei loro rispettivi comuni, quindi proprio un rapporto diretto con l'amministrazione proprio per richiedere questo genere di compilazione. In questo momento abbiamo quasi 80 comitati, insomma il numero sta cambiando di ora in ora, che sono già al lavoro e quindi nell'arco di 3 mesi è un numero importante che crescerà ancora ulteriormente nelle prossime settimane. Questi comitati quindi lavorano, fanno pressione sul primo cittadino, sperabilmente il primo cittadino compila questo documento che voi avete inviato e che avete preparato, e dopodiché cosa succede? Un secondo tempo, quindi il primo tempo è avere questi dati a disposizione di tutti e poi iniziare a costruire dei tavoli partecipati ai cittadini, quindi non soltanto gli amministratori locali e i tecnici del settore o i tecnici comunali, ma che anche qualunque tipo di cittadino possa in qualche modo esprimersi. Con dei dati di riferimento di questo genere, io credo e noi crediamo insomma che un po' tutti i cittadini siano in grado di esprimersi, quindi non occorrerà essere dei puri esperti, architetti, urbanisti per riuscire a leggere in queste informazioni. Ciascuno potrà portare un suo piccolo contributo in fase proprio di tavoli partecipativi. Luca, vedevo nel tuo articolo che tu indicavi proprio a proposito di professionisti, in particolare costruttori, come sia ben chiaro anche ai costruttori quali sono le difficoltà del momento, cioè loro stessi sanno che non si può andare avanti così. Per quanto riguarda l'edilizia residenziale, senz'altro. All'ultima assemblea in cui il CRESME ha presentato le analisi congiunturali per il 2012 stanno parlando dell'esigenza di spostare la propria attenzione verso la riqualificazione del patrimonio esistente, perché ormai basta farsi un giro per i cantieri per rendersi conto che le case restano invendute spesso anche perché hanno prezzi molto elevati legati a quel meccanismo perverso del debito che descrivevo prima. Purtroppo questo non significa che il territorio è salvo, perché sul numero di altre economie in uscita in questi giorni, inizio marzo, parliamo di autostrade, abbiamo contato il numero di autostrade in costruzione, in progettazione nel nostro paese, quindi già con degli atti effettivi in corso, e si parla di 32 tratte autostradali per 2100 chilometri, Bogliotti, questo di un terzo sì. La rete esistente, e ovviamente si concentrano nel centro nord del paese, in particolare nelle 4 regioni della pianura padana, dove già la densità di autostrade, la densità di infrastrutture è molto significativa. Do un dato per raccordarmi a quanto dicevano Sandro e Carlo, e che riguarda una sola autostrada, la Pedemontana Veneta, per 93 chilometri di autostrada verranno espropriate circa 2800 aziende agricole, e credo che questo dato potrebbe essere ripetuto anche per molte altre delle autostrade in via di costruzione. Sì. Servono davvero queste autostrade? Questa è la domanda che noi ci poniamo. Servono probabilmente a garantire appalti per 45 miliardi di euro alle imprese che le realizzeranno. Carlo Bogliotti, in conclusione ricordiamo agli ascoltatori che tra l'altro queste terre di cui ci parlava Luca Martinelli sono quelle più fertili, quelle del nord Italia, non solo del nostro paese ma forse anche dell'Europa. Assolutamente, noi con la nostra rete di Slow Food siamo in contatto con molti produttori in tutto il paese e con molte comunità del cibo, con molti cittadini che sono nostri soci, che ci segnalano quotidianamente in tutto il paese situazioni di questo tipo. I giornali ne sono pieni, invito ad andare anche sul sito di Salviamo il Paesaggio, www.salviamolpaesaggio.it, che serve anche a fare informazione, ed è pieno di storie relative al consumo di suolo fertile in Italia. È una cosa che va avanti dagli anni 60 in maniera esponenziale, aumenta ogni giorno, però il suolo fertile a un certo punto finisce, quindi non possiamo assolutamente continuare così, bisogna avere il coraggio di dire stop. Non significa che il settore edilizio non avrà più da fare, perché c'è anche molto da ristrutturare, da recuperare nel come nostro se paese ce l'è. E quindi voglio dire, è importante proprio preservare questo bene comune con le unghie e con i denti il più possibile, perché non torna, è una cosa che Purtroppo sì, una volta distrutto non c'è più. Io ringrazio i nostri ospiti, ricordo Alessandro Mortarino, che è il coordinatore e lunghissima dicitura Forum Italiano dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio, Carlo Bogliotti di Slow Food, Luca Martinelli di Altra Economia, e un invito a leggere i suoi articoli sempre ben documentati. Ora c'è la viabilità e poi proseguiamo. L'altro pianeta. Eccoci tornati insieme per la seconda parte dell'altro pianeta, in cui parliamo di un'altra azione dal basso. Nella prima parte abbiamo detto di un'azione dal basso per salvare il paesaggio e adesso un'altra per ridurre i rifiuti, ma non solo. Adesso ci spiegherà meglio Roberto Cavallo, che è il nostro ospite. Benvenuto Roberto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Roberto Cavallo è l'autore di un volume di un buon successo che si intitola Meno 100 kg, che racconta come si può ridurre la quantità di rifiuti che produciamo ogni giorno a casa e sui nostri luoghi di lavoro. Adesso questo libro vuole diventare un film, no? Esatto. E come vuole diventare un film adesso? Ma guarda, diciamo che il successo del pubblico un po' ha interessato un regista giovane che si chiama Emanuele Caruso di Alba, in provincia di Cuneo, col quale ci siamo trovati, ed è nata questa idea di fare un prodotto cinematografico a cavallo tra una parte di fiction e una parte di documentario, per cercare di usare anche questo mezzo di comunicazione per dire a tutti che si possono ridurre i rifiuti e, come dire, una pattumiera più leggera e senza dubbio più sostenibile. E in che cosa cercate l'aiuto dei cittadini, insomma? Allora, come purtroppo accade quando bisogna fare i conti con il budget, ecco, la produzione totale si aggira attorno ai 100.000 euro dell'opera cinematografica, e allora abbiamo deciso, attraverso il sito Produzioni dal Basso, di andare a chiedere con quote di 25 euro l'aiuto dei cittadini. Quote popolari, aiuto che si concretizza appunto con la raccolta di 800 quote che concorrono a riuscire alla realizzazione del film, anche grazie all'istituzione ovviamente, e diciamo che a chi partecipa comunque riscontriamo questo aiuto, nel senso che regaleremo il DVD poi dell'opera una volta realizzata. Ma perdete pubblico così? Sì, però guarda, l'opera nasce come senza fini di lucro, nel senso che è una cosa che cercheremo di fare totalmente finanziata, in modo che poi sia usata nella divulgazione nelle scuole, nei circoli di incontro delle associazioni, il più possibile. Quindi davvero lo sforzo è adesso, poi dopo ci interessa che passi il più possibile il messaggio che contiene il libro, che vuole contenere il documentario, e cioè davvero di un futuro più leggero, che forse è l'unico che ci possiamo permettere in questo momento. Senti, so che questo libro è già diventato uno spettacolo teatrale, e lì come si può dimostrare il modo in cui è necessario, si possono ridurre i rifiuti? Come fate sul palco? Guarda, sul palco è un monologo molto immodestamente, mi perdonerà, sullo stile del teatro impegnato di Marco Paolini, dove io mi muovo in quattro stanze e racconto tutti i gesti che noi compiamo all'interno di queste stanze, dal bagno alla lavanderia, alla cucina, alla stanza dei bambini. Ecco, nel film questo non sarà possibile, o meglio, sarebbe troppo ristretto come ambito, quindi facciamo un giro d'Italia a vedere dove queste pratiche già sono state messe in atto, e questo sarà una bella sorpresa, perché tante parti d'Italia la dieta l'hanno già davvero messa a regime, come dicono i francesi. Dicene qualcuna allora, perché così facciamo venire anche più voglia magari agli ascoltatori. Molti comuni hanno promosso i detersivi alla spina, tanti hanno rinunciato agli shopper usa e getta in plastica, moltissimi stimolano il compostaggio domestico, anche riducendo la tassa ai cittadini che lo fanno, quindi questa è una bella cosa anche per il portafoglio. Quelli più impegnati e virtuosi promuovono l'uso dei pannolini riutilizzabili e lavabili, o addirittura promuovono il compostaggio collettivo, cioè tante famiglie insieme si trovano per fare il compostaggio tutti insieme, cioè per riavviare gli scarti della mensa di nuovo al proprio giardino. Tutte queste cose insieme sono una bella sorpresa perché superano anche più il titolo dei meno 100 kg, cioè si può andare addirittura oltre, quindi questa è una bella cosa. Ricordiamo agli ascoltatori, prima di salutarci, come fare ad acquistare queste quote, sito internet, semplice, no? È molto semplice, basta andare su produzionedalbasso.it, cercare la scheda di meno 100 kg, ricette per la dieta della nostra pattumiera, cliccare sostieni con le proprie generalità scegliendo il numero di quote che uno ha voglia di dare, ecco. Grazie Roberto Cavallo, adesso è il momento di cedere il microfono a Maurizio Melis, ovvero il nostro Mr. Kilowatt. Sono oltre 5.000 i borghi e centri storici italiani con meno di 10.000 abitanti. Dentro ci sono milioni di edifici che costituiscono un patrimonio preziosissimo dal punto di vista storico, culturale e aggiungerei anche turistico. La sfida è modernizzare questo patrimonio, facendo sì che col tempo acquisisca prestazioni energetiche e accettabili, senza però deturpare, snaturare questa ricchezza. La buona notizia è che spesso le abitazioni pluricentenarie presenti nel paese hanno caratteristiche energetiche migliori di quelle degli edifici costruiti durante il boom edilizio tra gli anni 50 e gli anni 80, quando il petrolio costava poco e anziché isolare gli edifici si preferivano caldaie imponenti. La cattiva notizia è che parliamo di edifici tutti diversi tra loro. Dettagli, tecniche costruttive e materiali variano di luogo in luogo e spesso questi edifici hanno subito modifiche successive con materiali sempre diversi. Per intervenire in questi contesti si rendono quindi necessarie metodologie e materiali ad hoc, in particolare negli edifici di pregio artistico. Qualcuno si sta muovendo in questa direzione. Per esempio il Metadistretto Veneto dei Beni Culturali ed Ambientali ha iniziato a lavorare sin dal 2006 su questi temi. Per esempio ha messo a punto uno speciale isolante termico e una vernice nanotecnologica per proteggere gli affreschi. Parliamo di un'iniziativa che naturalmente punta da un lato a trovare soluzioni tecniche, ma dall'altro anche a innescare una filiera capace di creare valore, che va dalle imprese che producono tecnologia a quelle che le mettono in opera, fino alle università coinvolte nella ricerca di nuove soluzioni. L'Italia, col suo straordinario patrimonio di edifici storici, se ci pensiamo bene, può in questo senso costituire uno straordinario laboratorio di prova e insieme un palcoscenico per promuovere questo tipo di imprese in tutto il mondo. Perché non approfittarne? E adesso Marco Carminati ci presenta un'altra puntata di Articolo 9, che è la nostra rubrica che ricorda l'articolo 9, appunto, della Costituzione italiana, che dice: la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo in collegamento con noi Albano Marcarini, che è il presidente di Comodo. Dietro questo bellissimo acronimo si nasconde la Confederazione Mobilità Dolce. Stiamo parlando di ferrovie e stiamo parlando di ferrovie poco note, anzi quasi dimenticate. Buongiorno dottor Marcarini. Buongiorno a voi. Allora, la prima domanda che le devo fare è: che cosa sono queste ferrovie dimenticate? Beh, sono quelle ferrovie dove da tanti anni purtroppo non transita più un treno. Sì. E in Italia abbiamo più di 6.000 chilometri di ferrovie in queste condizioni, e non è poco. Allora sì. La domanda è: che cosa ce ne facciamo di questo patrimonio? Ecco, appunto, che cosa ce ne facciamo? Voi so che vi siete ben organizzati, anzi che già domani, domenica 4 marzo, avete intenzione di mobilitare l'attenzione addirittura a livello nazionale. Celebrate la vostra quinta giornata nazionale delle ferrovie dimenticate, probabilmente facendo transitare i cittadini su queste ferrovie. O mi sbaglio? No, perfettamente ragione. La giornata nazionale è un grande successo, perché vuol dire che in tutta Italia ci sono persone che non vogliono dimenticare le loro ferrovie, le ferrovie minori, ingiustamente considerate secondarie, ma che hanno sempre svolto un ruolo fondamentale. Allora, l'anno scorso abbiamo avuto più di 25.000 persone in tutta Italia che di domenica si sono recate su queste ferrovie abbandonate, le hanno percorse a piedi, le hanno percorse in bicicletta, le hanno percorse a cavallo e hanno riscoperto paesaggi, memorie e ricordi che non pensavano più di avere. Certo. E questa è stata una delle cose belle della giornata. L'altra cosa bella è il fatto di spingere in questo modo e di stimolare le amministrazioni pubbliche a far sì che questo patrimonio non resti abbandonato, certo, ma venga recuperato. In che modo? In alcuni casi si può addirittura pensare di ripristinare un servizio ferroviario a scopo turistico. Certo. In altri casi, dove purtroppo la ferrovia è ormai da moltissimo tempo in abbandono, si deve invece pensare di riconvertirla a percorsi ciclopedonali. All'estero li chiamano greenways, certo, vie verdi, certo. E se ne stanno facendo moltissime. Moltissime. È arrivato il momento di farle anche in Italia. Ecco, per esempio, lei che ha un'esperienza, credo, totale di tutto questo incredibile patrimonio, se dovesse suggerirci addirittura per domani, magari in tre punti dell'Italia, in modo che i nostri ascoltatori possano aderire, che tipo di esperienze possiamo fare con la vostra giornata nazionale delle ferrovie dimenticate? Per esempio in Lombardia dove potremmo andare domani? Beh, in Lombardia, solamente in Lombardia ci sono una quindicina di eventi. Lei pensi che in tutta Italia sono più di 90? Caspita. E mi scusi, ma veramente l'imbarazzo della scelta. Certo, non certo. Vorrei favorire uno piuttosto che un altro. Senta, allora, per esempio, mi piace moltissimo quella escursione che in Piemonte, vicino alla Lombardia, sì, si svolge in provincia di Novara per andare alla riscoperta, secondo me, della più piccola e la più bella stazioncina d'Italia, lungo una ferrovia purtroppo semi-abbandonata, è la stazioncina di San Bernardino, una piccola chicca che si va a visitare in bicicletta, oppure in Lombardia, sulla ferrovia della Valmorea, che in parte è diventata pista ciclabile, sì, in parte è tornata ad essere ferrovia turistica. Ma in tutta Italia ci sono eventi, c'è un treno a vapore che andrà da Rimini ad Ancona per festeggiare il centenario dell'apertura di questa importante ferrovia adriatica, ma ci sono poi altre iniziative, sempre in Lombardia si va a riscoprire un ponte ferroviario che è stato dismesso, oppure, le dico, nelle Marche si va a piedi da Fermo a Porta San Giorgio lungo una vecchia ferrovia, da Fano a Urbino una via verde, un trekking in Toscana da Saline a Volterra lungo una ferrovia che pensi era cremagliera. Addirittura. Senta, lei ci offre veramente un'opportunità per passare una domenica fuori dall'ordinario. Io tra l'altro darei il sito, perché se uno vuole guardare questi itinerari può collegarsi con www.ferroviedimenticate.it. www.ferroviedimenticate.it e potremmo con queste indicazioni fare le esperienze che lei ci ha suggerito. Dottor Albano Marcarini, io la ringrazio moltissimo di questa sua partecipazione. Grazie a voi della disponibilità e a presto. E a presto, grazie di queste idee, di questo lavoro che fate per tutelare naturalmente attraverso le ferrovie dimenticate gran parte del nostro territorio. E un grazie particolare a tutti gli ascoltatori. È tutto anche per questa puntata, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo, per scriverci, l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.